pomeriggio, ben trovati, ben sintonizzati. Vi parla Prince Faster in rigorosissima diretta. Eccoci qua, Prince Faster Magazine. Insieme passeremo ben 3 ore. Ma oggi è venerdì e ritorniamo al giorno, insomma, più gradito ai nostri ascoltatori, perché ritorna anche una rubrica tanto cara, ma tanto cara a me e anche a molti di voi. Sigla, anzi controsigla. Ben arrivati a Cellulite e Celluloide, l'unica trasmissione, anzi la, diciamo la più importante trasmissione al mondo dedicata al cinema e alle sue novità, ai suoi aspetti più nascosti. Parleremo di cinema, quel cinema tra le righe, quello tra le pieghe, tra i rubinetti. Una trasmissione da addetti ai lavori. Di quelle specializzate. Sì, esatto, capito? Ore liete, le ore liete. Quel film che ti ho mandato, diciamo, agli ascoltatori. La legge della tromba, adesso mi sono ricordato com'è. La legge della tromba. Perché voi sapete, tutti quanti sapete, che per un certo periodo, per questioni di politica internazionale, Radio Cellulite non è andato in onda. Per questioni più grandi di noi, che adesso non staremo qui a discutere. Cose molto più grandi. Dico solo una cosa. Corea del Nord. Ma basta, ma non ne voglio parlare, non ne voglio parlare. No, aspetta, di anche Trump. Trump, esatto. Basta. Però non è che qui noi stavamo fermi, non è che si stava fermi. No. Non è che non si pensava a grandi remake da fare o non ci si scambiava film incredibili. Ce n'è uno. Esatto. Uno, per esempio, è stato La legge della tromba. Che io ho scoperto. Sì, ovviamente. Un film del 62 di un regista poco noto, diciamo. Adesso, la verità. Io neanche me lo ricordo più, adesso vado a controllare. E ho inviato a Vasquez questo file e lui se l'è visto e è rimasto 3 giorni a casa. Del grande Augusto Tretti, un film che veramente, veramente mi ha impressionato. A suo modo una chicca, a suo modo. Comunque, film bellissimo, ma quindi iniziamo a parlare subito di cinema e la prima cosa di cui parliamo è 007, il nuovo Daniel Craig. Che sembra... torna. Allora, in alcune puntate fa diverse... Aspetta, dico solo che lui si sposa. Come fu per un altro film. Cosa? Per il servizio di sua maestà. Lazenby si sposa all'inizio del film. E anche... No, alla fine, scusami. Alla fine si sposa. E poi parte, eccetera. Ma accadde anche in un altro... in un altro film, sempre di 007, dove però gli uccidono la moglie. Quello è quello di Lazenby, quello di no, ce n'è un altro con forse quello di Timothy Dalton. Timothy Dalton. Non mi ricordo, forse Bersaglio Mobile, adesso non mi ricordo esattamente quale, però cioè, insomma sì. Torna in alcune puntate precedenti, avevamo raccontato che forse non sarebbe tornato Daniel Craig perché aveva rifiutato 150 milioni di dollari di ingaggio. Adesso invece ha accettato e io adesso per non... quanto? Non so la cifra, ma insomma... 200. Mi tremano le gambe all'idea. Cioè, ma se rifiuti 150, ma davvero ti cambia 200? Cioè, non so come dire. Gliene hanno dati 300. Tra 150 e 300 cambia. Forse sì. Cambia la grandezza dello yacht su cui mettere la villa. Cambia la borsa. Devo infilarli perché devi portare una valigiona gigante. Cioè, lui deve seppellire come fanno i Narcos. Certo, nelle foreste dell'Inghilterra. Esatto, nella brughiera. Ma secondo te chi sarà il prossimo? Questa è la grande... Tony Servillo. No? Pensa che roba. Si diceva a un certo punto che non doveva appunto essere Craig questo qui, ma doveva essere Tom Hiddleston, che ci sta, ha il profilo giusto... insomma un po' d'altri tempi, perché è un segaligno, è uno secco però molto di classe, è Loki dei Vendicatori, degli Avengers. Ah, Mo te lo faccio vedere. Ha uno, insomma, che è molto visto. E ha il profilo giusto, la classe giusta, diciamo, per fare Bond. Ma invece poi c'era anche chi diceva che era finita l'ora dei Bond, quelli, insomma, molto di classe. Era l'ora dei Bond un pochino più rudi. Ah, e quindi, lui, no, non mi piace. Però ce l'ha. E poteva essere... L'ho conosciuto in una serie televisiva. È giusto, che il portiere di no- The Night Manager, The il portiere Night di Manager. Notte. E, poteva essere invece il momento di Idris Elba, che è il nero britannico, nero che ha fatto la serie Luther, anche lui molto terribile, forte. Terribile. Però bravo lui, bravo, sì. C'ha quel che di rude. Sì, però quella serie televisiva sta veramente... Però è nero e a te non piacciono i neri, è questa la verità. No, anche se uno 007 secondo me non può essere nero, ma non per motivi... No, per storia del personaggio, non è corretto. Per storia del personaggio. Sì. Cioè... È con lo stesso motivo per cui i Ghostbusters non possono essere donne. Nessuno ha nulla contro le donne, però quelli nascono uomini, c'è tutto un tipo di genere. È proprio nella filosofia. Sì, esatto. È come se Bud Spencer e Terence Hill non possono essere donne, il tipo di personaggio non si adatta. Sì. Non è che tutti possono far tutto. Se no poi insomma i candidati questi sono quelli famosi, poi magari prendono uno molto meno famoso che conosciamo meno. Beh, Daniel Craig non era famoso quando ha fatto dei film, ma non, fuori dall'Inghilterra cosette, non era. Sì, fuori dall'Inghilterra non era noto. Aveva fatto una cosa, lui faceva lo spacciatore, non ricordo il titolo del film. Che poi viene ucciso nel film, diamo anche il finale. Secondo me lui è l'unico perché ha stile quando Craig, serve, dici. Sì, Craig ha stile quando serve, è violento quando serve, e poi è stato il primo 007 che si è ferito. È vero pure questo, certo, è vero. È stato il primo 007 che si ferisce. Se non sbaglio, nella prima scena del suo primo film da 007, esatto, no? Nella primissima si ferisce e gli esce il sangue, cosa che non è mai accaduta nei film di 007. Però te lo dico, io sono per Tom Hiddleston, perché secondo me lui poi ce la fa a fare anche le altre anime. Cioè lui ha il portamento, quello da 007 nobile, no, però... Troppo la faccetta da ragazzino, non è il personaggio, secondo me. Lui, Tom Hardy? Lui sì. A proposito di Tom Hardy, ecco lì, scusa se ti interrompo, lì potremmo vedere con lui eventualmente uno 007 molto più violento, molto più rude, diciamo. Molto più rude del nostro Daniel Craig. A proposito di Tom Hardy, in questo periodo che non c'è stato cellulite e cellulode, sei andato a vedere Dunkirk? No. È ancora al cinema, il filmone grosso di guerra di Christopher Nolan. Penna, datemi una penna, porca. Vabbè, dopo me la vero... mandi il link. È un vero grande film di guerra, ma di quelli pesanti, grossi. Cioè, addirittura. Sì. Erano tanti anni che non c'era un film di guerra di questo peso, di questa grandezza. Molto bello, cioè, a me è piaciuto parecchio. Ambizioso, tutto girato in pellicola. Non si fa più. Tutto girato in pellicola. 70 mm. Sì, nello splendore del 70 mm. Tant'è che c'è un bellissimo sito che ha fatto tutta una. Come dire, una spiegazione di tutte le maniere in cui è possibile vedere questo film. Cioè, lo puoi vedere, adesso non più, però in alcuni cinema si poteva vedere in 70 mm, adesso ormai non più. Si può vedere in IMAX, dove c'è un IMAX ed è molto bello, se no si può vedere nei cinema che lo fanno in 4K, o se no ancora nei film cinema semplicemente che fanno una proiezione digitale, chiaramente è quella un pochino a schermo più ridotto, però insomma è sempre, devo dire, un film molto bello, molto particolare. Se conoscete, probabilmente li conoscete i film di Christopher Nolan, cioè The Prestige, Interstellar, Inception. Anche questo qui è un film che un po' come questi altri film, un po' ti sfida, un po', no, vuole farsi capire, c'ha un intreccio strano, particolare, perché ci stanno alcune scene, c'è una parte del film in aria, cioè aerei, combattimento aereo, una parte del film per terra, nella sabbia qui a terra, e una parte del film in mare, le navi, e si incrociano in maniere particolari con il tempo, perché una parte dura un'ora, una parte dura una settimana, una parte dura un'ora, un giorno e una settimana, ecco com'è, e hanno tutte durate differenti che si incrociano, insomma, così. Tipici trucchi da Nolan, no? Mi ero segnato una cosa da chiederti su una nuova tecnologia per ascoltare, per ascoltare il film. Dolby Atmos. Lo hanno perché installato io in tutto su... questo periodo che non abbiamo fatto la trasmissione. Hai io... fatto? Ma ho studiato tutto, perché ho detto, ma metti che ricominciamo, ma io cioè... Chissà che domande mi fa sì, fare. Sì, che io devo sapere tutto, devo sapere. E quindi il Dolby Atmos. L'hanno installato per la prima volta su in una multisala pazzesca, non ricordo bene dove... Sono poltrone lunghe dove c'è il ristorante, puoi mangiare mentre vedi il film. Ah, sì, sì, sì. Credo che ci sia anche in Italia, non in sale così, cioè in sale normali, però c'è il Dolby Atmos anche, forse anche a Roma, devo controllare. Qual è la differenza? Allora, il Dolby Atmos... Poi parliamo anche del 6K, Su quello sono meno preparato. Il Dolby Atmos, allora, voi sapete che una volta, tanto tempo fa, il suono veniva dallo schermo. Era mono. No, al cinema c'era una grande, un'unica grande cassa che vi sparava il suono in fronte, era così. Poi a un certo punto si è fatto stereo, quindi più sofisticato, canale destro, canale sinistro. Poi è arrivato il Dolby Surround, che se vi ricordate quando è arrivato era una cosa incredibile. Dolby perché... Surround venne per la prima volta, questo te lo posso dire solo io perché cos'era? Tu non lo puoi sapere, con... Jurassic Park. No, no, no, no, no, con Terremoto. Con non so solo. Se fosse il Dolby Surround, ma... Aveva dei bassi pazzeschi. Mm-hmm. No, il surround è quella tecnologia per cui invece che essere due casse come lo stereo, hai le casse tutte intorno alla sala. Per cui il suono ti viene anche da dietro alle volte, a seconda no, di dove sta il personaggio, di come funziona. Ed è stata, diciamo, più o meno lo standard fino agli ultimi anni, bene o male. Poi sapete, ci sono mille standard diversi. Però erano, imitavano tutti il surround. Tante casse intorno a voi. Il Dolby Atmos invece ha un. A parte che ha le casse anche sul soffitto. È un po' ridicolo, però c'ha, c'ha pure quello. E ha una maniera di coordinare le casse per dare un sonoro di qualità altissima, perché figuriamoci, che è innovativo. Io l'ho sentito per la prima volta, pensate voi, al Festival di Venezia di 3-4 anni fa, perché Atmos me ne hai mai parlato. Aveva sponsor... Sì, lo parlammo, secondo me. Aveva sponsorizzato una sala, molto, la sala principale, molto grande, e fecero proprio una dimostrazione con quelle tipiche cose che si fanno nelle presentazioni del, dei sistemi audio, con il suono della pioggia, no? Queste cose così che si fanno, ed era molto coinvolgente, chiaramente. Poi, come spesso accade, magari la sala è super attrezzata, però i film non sono ancora fatti per l'Atmos, quindi erano film normali con un grande audio. Adesso sempre di più, invece, no, i film hanno anche un audio complicato, molto complesso, ed è godurioso da sentire. Insomma, è, come potete immaginare, è un suono che vi coinvolge di più, cioè ti sembra sempre di più che sia il suono reale nel mondo vero. Qual è la differenza? Ci sono... altre casse oppure c'è una differenza? No, è la maniera in cui le casse si coordinano, sì, a parte anche l'equalizzazione, ma insomma come sono coordinate e come interagisce, cioè il fatto che il film è fatto immaginando questa cosa, cioè la tecnologia inizia sul set, no? Come è ripreso il sonoro. E... ma ci sono a Roma, no? Secondo me sì, adesso controllo, Mentre noi introduciamo il 6K, sta per uscire, o l'8K, credo, però insomma ancora non, io non conosco sale attrezzate. Tu ne hai visto? No, non l'ho mai visto perché non conosco sale attrezzate con 8K, quindi non però posso giudicare. Visto che ti sei fatto tutti i festival a spese mie. Lo so, però è colpa loro, è mica mia. Allora, vi posso dire che a Roma gli UCI Cinemas hanno alcune sale dotate di Atmos e il multisala Andromeda, che è un multisala non grande di Roma, non è dei più famosi, ma ha tecnologicamente è stato dell'arte. Pensa che una volta io... è incredibile, perché il proprietario è molto fissato. Io una volta dovetti fare un'intervista alla Sony proiettori, quindi... Hai preso soldi sotto banco. Proiettori sotto banco. Sì, io comincio a dire: ma no, secondo me non, le testate non me la pubblicano. Ah, ma magari c'è un omaggio, magari ci portiamo con noi una valigetta. Allora dico: ma guarda, forse mi sta rinfrescando la memoria. Insomma, ho fatto questa intervista e siccome io ho detto: vabbè, però fatemelo vedere sto, perché c'era un proiettore di nuova generazione, fatemelo vedere, e mi hanno dato appuntamento all'Andromeda. Questo proiettore di nuova generazione non era niente male perché ha due lenti, cioè invece è come se una. Fossero due proiettori praticamente. Quindi si dividono i colori? No, sono due proiettori che proiettano entrambi la stessa immagine, e c'è al centro un laser che fa sì che misura la coordinazione, cioè questi due proiettori sono coordinati via computer e questo laser rileva che non ci siano sfasamenti, che funzionano esattamente perfetti, e se c'è una minima imperfezione il sistema li aggiusta. E questo cosa vuol dire? Perché fa questa cosa? Perché la doppia immagine raddoppia i frame ed è molto più preciso, molto più definito. Quindi non si vedranno più in un futuro i film bui di cui parlavamo. Oh, tra l'altro, questi qui mi spiegavano, ora tenete conto che me l'ha spiegato la Sony stessa, quindi no, cioè facciamo anche un minimo di tara su quello che mi hanno detto, eh. Però insomma ci hanno tenuto a dire, siccome sappiamo bene che la luminosità è un problema, noi abbiamo fatto così. Ah, pure loro? Lo sanno bene. Lo sanno bene pure loro. Le nostre lampade costano meno sostanzialmente. Quindi insomma il proiezionista può anche consumarle di più, perché il problema dei film bui è che le lampade costano, per cui non le vogliono cambiare, le usano, le tengono troppo, oppure le spingono poco così che durino di più. Invece queste qua costano molto meno e vanno avanti di più, quindi le possono tenere di più, le possono cambiare di più. C'hai meno spese. Esatto, le poi sei diciamo più invogliato. Poi se li vogliono proiettare al buio, non c'è niente da fare, li proietteranno al buio. Io guarda, praticamente l'80% dei film li ho visti al buio. E purtroppo è un problema che io non conosco, perché siccome io vado a vedere film soprattutto in proiezioni per la stampa, che sono sorvegliate magari dalla Sony, dalla Universal, lì nessuno proietta al buio. Certo, perché mettono a palla. Tutto esatto, poi il giorno dopo arriva e passa, no? Chiaramente, per cui a me non capita quasi mai di vedere film al buio. Io invece quasi sempre vedo film al buio, come tutti quelli. Ahimè, no, ma lo so perché molti umani me lo dicono. Allora, parliamo dell'8K niente, abbiamo le 007, quindi specialino dedicato a Venezia. Oh, posso dirti una cosa? Sì. È stato probabilmente il più grande festival di Venezia da quando io vado al festival di Venezia. Oh, ci siamo lasciati, cioè, dall'altro ieri. Ci siamo lasciati la scorsa stagione con il peggior Cannes. Ma infatti sono due anni che Cannes va malissimo, no, due anni, e anche quest'anno a maggio è andato malissimo. Poi malissimo, sai, è questione anche di fortuna, perché chiaramente un festival lavora con i film che ci sono. Se non ci sono buoni festival c'è poco da fare, cioè buoni film, scusate, c'è poco da fare, non se li può inventare. Però alcuni, adesso andremo nello specifico, alcuni li ha pure perduti, non li hanno presi. Invece Venezia è stata sia fortunata, perché ci sono stati dei bellissimi film, ma anche ha scelto benissimo, perché anche i piccoli, no? Quelli che magari te li devi andare, perché sono buoni tutti a scegliere i grandi, no? C'è il nuovo film di Guillermo del Toro, lo prendo! E va bene, ok, così sono buono pure ma io. Ma era però bello, è bello almeno quello che ha bellissimo. Vinto. È veramente bello, ma si chiama The Shape d'amore, of Water. Le cose, è un film d'amore, sì, lo so, è un film d'amore. Quadrature, campo lungo. No, no, Guillermo del Toro è quello del Labirinto del Fauno, è quello di Pacific Rim, è quello di Pacific Rim. Ah, ho capito, no. Però insomma, però è d'amore. D'amore, ed è molto bello perché lei si innamora del mostro e lui non è che si allora il film inizia con lei che si masturba in vasca, cioè così, è un film americano che andrà agli Oscar, però comincia così e a un certo punto quando si innamora del mostro fanno pure roba col mostro, che voglio dire, cioè, anch'io ho avuto un momento stiamo facendo questa cosa, perché dentro in mezzo nel film c'è un mostro, sempre nei film di Toro c'è sempre il mostro, perché lui gli piace molto raccontare film in mostri in cui, questo è molto ripetitivo, ma lui sa fare i film bene così. Il mostro è sempre buono, cioè è sempre la parte migliore del film. I veri mostri poi sono gli uomini. Tant'è che il suo classico è film con mostro in un'epoca molto particolare. Per esempio, il suo film più famoso prima di questo era Il Labirinto del Fauno, che è un film con un mostro durante la guerra civile spagnola, la dittatura di Franco. Tipico. E ha un progetto. A Venezia, alla conferenza stampa, ha detto che lui ha un progetto che vuole fare, ma non ci riesce perché nessuno gli dà i soldi. Dice, mi servono 35 milioni, ha detto. Porco cane. Sì, questi perché chiaramente lui ragiona allo standard di americani. Certo. Vuole fare Pinocchio all'epoca del fascismo, sotto Benito Mussolini. Vuole fare l'idea è grandiosa, bellissimo, chiaramente, bellissimo. È grandiosa. Adesso che ha vinto, perché spoiler, ha vinto il Leone d'Oro al Festival di Venezia, forse li trova, perché chiaramente c'ha tutta un'altra. Non solo, vi dirò un'altra cosa, non era mai capitato, io sono andato a controllare, non era mai capitato in assoluto, né a Venezia né a Cannes, che sono i due grandi festival di cinema, che vincesse un film fantastico, con degli elementi di fantasia tipo i mostri, mai capitato, non solo, io sono andato a controllare, come sei preciso? Non ha mai vinto un Oscar, un film col mostro, mai, perché addirittura anche E.T., che nella nostra memoria ha vinto un sacco di cose, non ha vinto niente, perché era l'anno di Gandhi, l'anno di E.T., vinse tutto Gandhi, il film con Ben Kingsley, E.T. non ha vinto, per dire, quanto alla fine gli Oscar anche sono, e questo film, che si porta dietro il Leone d'Oro, sappiate che negli ultimi 5 anni, chi è uscito bene da Venezia, non vincendo i premi, però è uscito bene come il film di cui tutti parlano, poi ha vinto l'Oscar. La La Land, che non ha vinto l'Oscar principale, ma insomma ne ha presi tanti. Gravity, il caso Spotlight, Birdman, tutti questi sono venuti da Venezia. È la prima volta che venivano visti, era a Venezia, che è il motivo per cui Venezia è cresciuto, perché è diventata la porta per gli Oscar. E quindi, anche Del Toro... Come mai questa cosa rispetto a Cannes? Allora, primo è una ragione di posizionamento, nel senso, Cannes, gli Oscar sono a febbraio, Cannes a maggio, troppo presto per gli Oscar. Non puoi cominciare da lì. Mentre invece Venezia a settembre è proprio l'inizio della stagione in cui tu cominci a correre per gli Oscar. E poi perché sono stati bravi questa gestione di Venezia è stata molto brava a costruirsi dei rapporti. Cioè, per esempio, un film come Gravity, no, era un film che magari non avreste detto che avrebbe vinto gli Oscar, è stata una scommessa buona. No, anche Birdman non si diceva che magari avrebbe vinto. Poi gli altri, magari, La La Land era evidente, lo sappiamo tutti che avrebbe vinto, era evidente. Però lui ci è arrivato a potersi permettere di avere La La Land, no? non è che ci arrivi subito. Insomma, ha costruito una serie di relazioni con gli americani ottime, che gli hanno consentito adesso di essere la porta. Tant'è che io quest'anno sono andato e sono tornate le file. Venezia era un po' decaduto per tutta una serie, per la crisi economica anche, perché è difficile pagarsi Venezia, anche per gli americani venire, per cui la stampa straniera l'aveva un po' abbandonato, e non c'erano più le file, si entrava in sala così liberamente, e a volte le sale non erano neanche tutte piene. Quest'anno ho rivisto finalmente le file, quindi vuol dire che c'era molta più gente, non solo era più difficile avere le interviste, il che vuol dire che c'era molta più stampa straniera che ti fa concorrenza, e quindi chiaramente è difficile avere le interviste. Tu no! Mi hanno detto altri, io poi sai, alla fine io non me ne accorgo perché ho i posti prenotati, cioè, arrivo, sì, non faccio file, sai com'è. È difficile per me capire le persone vere come vivono. Senti, Venezia, sei andato a vedere la realtà virtuale? Sì, sono andato, ho fatto un ampio reportage. Ce l'hai fatta a vederlo? Sì, perché hanno fatto una giornata per la stampa e io mi sono infilato. Perché ho saputo che era difficilissimo trovare biglietti. Difficilissimo, però io sono andato prima che iniziasse il festival, e c'era proprio la giornata in cui si faceva solo la stampa. Allora, uno, idea geniale, l'hanno messo su un'isola. Cioè, sì, un'idea che lo sapevo. A me mi fa morire da ridere. Cioè, tu prendi il motoscafo, proprio vicina, 10 minuti di motoscafo. Però prendi il motoscafo e arrivi su quest'isola dove c'è solo questa struttura, l'isola Lazzaretto, Lazzaretto Vecchio si chiama. E c'è solo questa struttura, che era un lazzaretto e quindi stava isolato, in cui piena di queste cose della realtà virtuale. Allora, è stata in assoluto... tutti i festival di cinema negli ultimi 3 anni hanno avuto qualcosa di realtà virtuale, perché tutti hanno capito che, no, questa cosa è importante. Nessuno mai come Venezia aveva fatto tutto un concorso di anteprime mondiali, di roba che non è andata da nessuna parte, con una giuria seria. Cioè, il presidente di giuria era John Landis, il regista di Un lupo americano a Londra, o dei Blues Brothers. Il regista più divertente che abbiamo visto. Esatto, in assoluto, esattamente. Ed è la presidente di giuria, per dire, non vi stiamo dando un premio a caso. C'erano 3 categorie. Quello che si chiama VR Theater, cioè tu sei seduto su una sedia girevole, hai il visore e non ti puoi muovere all'interno di quello che vedi. Quindi puoi girare chiaramente, giri a 360 gradi, guardare in alto o andare in basso, ma sei fermo. Ed erano la parte secondo me meno interessante, anche le cose che ho visto... Che sono tutti cortometraggi, No? Alcuni duravano anche 50 minuti. Il più bello che ho visto lì è stato incredibile, non l'avrei mai detto, Gomorra. Cioè hanno fatto questa specie di operazione commerciale, un 15 minuti di Gomorra in realtà virtuale. Io pensavo sarebbe stato bruttissimo, perché mi sembrava una cosa fatta con la mano sinistra. Invece è un segmentino, come una storiella di Gomorra. Ragazzi fermano un carico di armi, lo vogliono rivendere, ma in realtà doveva andare a Malamore, che è un personaggio proprio della serie di Gomorra, il quale li becca subito, li porta, li vuole fare fuori. Insomma, una storiella da Gomorra. Sempre vi ripeto che tu non ti ci puoi muovere all'interno, però il fatto che, se avete visto la serie Gomorra, una cosa importantissima della serie sono gli ambienti, i posti, no? Posti stupendi, veri poi, posti stupendi, veri, ripresi bene. E questo fatto che tu in questi posti un po' ti giri e guardi da tutte le parti, no? Quando sono tipico di Gomorra, stanno in quei posti mezzi costruiti, si nascondono, semi distrutti. Esatto. E magari ti giri e dietro c'è semplicemente un angolo con dei calcinacci, cioè ti rendi proprio conto, madonna, ma che schifo! Funziona. Oppure c'è un altro pezzo bellissimo col drone. Il drone che si muove e tu guardi tutto intorno, oppure si danno la caccia sui tetti, in questi tettacci terrificanti con i panni, le cose, ed è proprio bello, devo dire, mi ha veramente convinto subito, bellissimo. Gli altri meno, gli altri che ho visto. Seconda tipologia, i si chiamano gli stand up, cioè quelli che stai in piedi e ti muovi. Mm. Hai una libertà, mobilità limitata, per carità, cioè diciamo 4-5 passi in ogni direzione puoi fare più o meno. Ne ho visti alcuni un po' più scemotti e uno bellissimo. Si chiama Dear Angelica ed è di uno che è un regista che ha fatto anche i cortometraggi per la Pixar, quindi uno serio. Praticamente tu sei in uno spazio nero, tutto nero intorno a te, e si formano dei disegni. C'è una voce narrante che racconta una storia di una ragazza con la madre che è morta, quindi ricorda sua madre, e ci sono tutti questi grandi disegni bellissimi e tu ti muovi dentro i disegni. I disegni sono fermi, non sono animati, si compongono, ma sono grandissimi, per cui tu alle volte, no, ti trovi in mezzo ad un disegno bellissimo, molto grande, colorato benissimo. E devo dire, è molto impressionante. E lui varia le dimensioni. C'è il momento che lei arriva a raccontare quando la madre è morta. Quindi c'è il disegno del letto d'ospedale con la morte. Che il disegno invece è minuscolo. Cioè tu sei stato fino a quel momento in mezzo a disegni grandi. E poi te ne trovi uno che è grande quanto la tua mano. E ti ci avvicini, lo guardi da vicino. E ti dà quell'idea, appunto, del momento triste. Ma guarda, sono rimasto proprio atterrito. Dura, non so, 6 minuti durerà, una cosa del genere. Bellissimo. E poi l'ultimo, le installazioni. Cioè che ci sono anche degli oggetti nel mondo reale. Quindi ce n'era uno che sta istimettono steso in un letto d'ospedale e tu ti muovi, guardi, giri, succedono cose. Ce n'è un altro che ti danno in mano dei controller e tu voli, ti muovi in un ambiente virtuale, voli di stanza in stanza ed era fatto molto bene. Non era bello quello che accadeva, però era fatto bene il fatto che tu puoi volare dentro le cose. Tecnologicamente. Sì, ti guardi intorno, c'è un mondo, tu ti ci muovi dentro bene, era molto bello. Ma il più bello è francese, un'idea geniale. Allora, questo ve lo racconto per bene, si chiama... Alice VR, ha a che vedere con Alice nel Paese delle Meraviglie. La cosa, l'installazione inizia fuori, cioè c'è una stanza, tu sei fuori, non hai il visore addosso, e lì inizia l'esperienza. Si apre la porta e c'è un uomo, una persona, che ti dice: forza, entra che sei in ritardo, muoviti, siamo in ritardo, muoviti. Entri dentro questa stanza, che è abbastanza grande, però tu ne vedi poco perché c'è una tenda subito, quindi tu vedi come un piccolo sezione, un corridoietto, fatti conto, perché la tenda ti preclude il resto. Ti fa levare l'orologio, ti fa levare quello che hai addosso, così rimani senza zaino, senza cose, solamente tu, senza pesi. Apre veramente? Veramente, ancora non hai il visore. Apri una tenda. Ah, quindi... Questo è ancora tutto vero. Ah, ok. Sì. Apri la tenda, tu passi in un altro ambiente, che ancora non è tutta la stanza, però è un altro ambiente, perché dopo c'è un'altra tenda che ti preclude, e finalmente c'è il visore, finalmente. Questo posto è tutto arredato un po' velluto, specchi, no? Un po' barocco. Lui ti dice: allora mettiti questo visore, adesso io ti metto il visore, ti metto anche le cuffie, ricordati che qualsiasi cosa tu vedi la puoi toccare, qualsiasi personaggio che tu vedi ci puoi parlare e lui ti risponde, qualsiasi cosa da mangiare che incontri la puoi mangiare, così. Ti mette questo visore, ti mette le cuffie, tu nelle cuffie lo senti perché lui è microfonato, e ti continua a parlare, ti continua a dire: allora mi raccomando, ricordati che se ti muovi, e la sua voce scompare piano piano, volume sempre più basso, e ne arriva un'altra che ti chiama per nome. Gabriele. Comincia a vedere cose nel visore. Evidentemente, adesso io non l'ho visto perché avevo il visore, ma evidentemente si apre anche quella tenda. Certo. E tu ti puoi cominciare a muovere. C'è uno scranno con un libro. Arrivi, tocchi e c'è. Cioè, tu, e ce n'è uno nel mondo reale, evidentemente, perché c'è, quindi tu ti vedi le mani nel mondo virtuale. Ti vedi le mani, fighissimo. Tocchi, cominci a interagire con le cose e arriva il bianconiglio che ti comincia a dire tutta una serie di cose. Siamo in ritardo, dobbiamo fare le cose, che ci fai qua, chi sei, Tu gli rispondi e lui ti risponde, perché è un attore catturato in motion capture al volo. Tant'è che la grafica non è bella, però chi se ne frega. Porco cane. Funziona bene. Ci sono oggetti volanti che tu acchiappi, perché evidentemente qualcuno con la mano li fa volare, capito? Esatto, e li lascia quando tu li prendi. A un certo punto ti danno un fungo che tu metti in bocca, in realtà è una meringa. Io avevo un po' di paura a metterlo in bocca, perché dicevo, ma questa è una cosa che io non sto guardando. Sei rimasto sotto, saresti rimasto sotto. Metti la meringa in bocca, quindi nel mondo virtuale cresci, interagisci col brucaliffo, che ti comincia a fare una battaglia con lui di parole, che lui ti vuole fregare e tu devi fregare lui, e c'è l'odore del fumo del brucaliffo, per terra c'è evidentemente una moquette d'erba, quindi tu vedi l'erba e c'è l'erba per terra sotto di te. Devo dire una cosa, che a un certo punto c'ero dentro totale. Nel pezzo finale. Ci ha messo 2 giorni a uscirne. Sì, però. No, veramente, nel pezzo finale, hanno un'idea per finirlo bellissima, perché nel pezzo finale tu devi come acchiappare una corona nel mondo degli scacchi di Alice nel Paese delle Meraviglie, e quando ti avvicini a prendere questa corona si allontana, no? È quella cosa che tu cerchi di prenderlo e si allontana sempre di più, allora vai, ti muovi in giro cercando di prendere questa cosa. Quando ti sembra di adesso ce la faccio veramente, quella persona dell'inizio ti leva le cuffie e ti leva il visore, proprio così, senza di botto, e ti dice: oh, ti sei addormentato, ma che hai sognato, che hai visto? E sei di nuovo in quell'ambiente con le tende chiuse, no, quanto. cioè, una roba veramente da applausoni. Finisce, esci. Poi ho parlato con quello che l'aveva fatto e mi ha spiegato che ci vogliono 6 persone contemporaneamente per farlo, no? Tra attori, gente che ti tiene in giro gli oggetti, che li muove intorno all'ambiente perché tu, certo, non ci finisca contro. Insomma, veramente devo dire un'esperienzona, una, ecco, cosa veramente. Ecco perché non si trovavano i biglietti, perché ce n'erano pochissimi. Ma pensa che quello lì dovevi prenotarlo, cioè tu prendevi il biglietto per andare in quell'isola e dentro facevi tutto, ma appena arrivato dovevi prenotarti per quello, anche all'interno della stessa giornata. Certo. Incredibile, veramente. Beh, uno dei pochi ad averlo visto, porca miseria. Il migliore, sai com'è. Hai fatto la recensione? Sì, sì, sì, ho fatto tutta una spiegazione dettagliata. Ha avuto molti click? Non troppi, perché comunque ancora non qualche interessa milione? Tantissimo. Solo qualche milione. Siamo sotto media. Insomma, chi ha vinto Venezia? Ha vinto Guillermo del Toro col mostro, incredibile. Mm. Dettaglio esilarante. Lui quando ha preso il Leone d'Oro, Guillermo del Toro è un uomo di 300 kg, è veramente ciccione. Quando ha preso il Leone d'Oro, ha fatto un discorso poi molto bello, perché lui appunto faceva un cinema di robot e di mostri, che solitamente non vince i festival, non è quella roba lì. E quindi lui, quello che voleva dire è: credete nel quello che vi piace veramente, perché poi guardate, alla fine, no, uno premiato. E dice: io credo, se, cioè credete in quello che vi pare a voi, io credo nei mostri, no? E alla fine è, che è stato molto bello. La traduttrice però, siccome lui è messicano, parlava inglese ma è messicano, quindi non lo parlava benissimo, non ha capito monsters quando lui ha detto mostre, ha capito mustard, senape, per cui gli ha fatto dire: io credo nella senape. Nella senape. Sì. Che detto da uno di 300 kg era veramente grottesco. Poi, nel momento più alto della sua carriera, sì, distrutto, no, per una, sì, io credo nella senape. Vabbè. Oh, allora, volevi aggiungere altro? Sì, c'è un sacco. Sì, di no, c'erano, ho visto dei film molto belli. Vi dico due film. Allora, vi posso dire il film italiano dell'anno? Ricorda di Gomorra 3. Oggi ho fatto un breve articolo su princefaster.it. Allora, il nuovo personaggio, secondo me, è cazzuto. Ah, ho visto nel trailer. Ho visto, sì. Ma però vi dico qual è il film italiano dell'anno, cioè il gig robot dell'anno, quello che tu dici: ah, ma questo film bisogna andarlo a vedere. L'ho visto a Venezia, perché quest'anno, ve lo dico tra lusco e brusco, Venezia negli ultimi 2 anni ha fatto tante cose buone, però c'è una cosa che non è mai riuscita a fare negli ultimi anni: intercettare i film italiani migliori. Ha perso gig robot, cioè proprio l'avevano visto e hanno detto: no, non ci interessa. Errore clamoroso, vabbè, proprio clamoroso. Sì, proprio clamoroso. Ha perso Indivisibili, che ha vinto un sacco di David, è stato un film importante, ma anche quello: no, non ci interessa. Siccome sono rimasti scottati da questa cosa, quest'anno hanno preso tutto. Cioè, hanno preso tutti i film italiani disponibili. Per non sbagliare, li prendiamo tutti proprio. Quindi era pieno. Uno di questi è bellissimo ed è incredibile, un cartone animato. Roba che noi non facciamo praticamente mai. Cartone animato si chiama. Il titolo è brutto, eh. Voi fate finta che questo titolo non sia. Cioè, si chiama Gatta Cenerentola. È un titolo terribile. Ma in realtà è fantascienza ambientato a Napoli, bellissimo. Criminalissimo, molto duro, pistole. Ma sembra giapponese, cioè è veramente bellissimo. È ambientato in una nave in questa nave è stata progettata da un ingegnere per avere all'interno degli ologrammi che rappresentano le memorie individuali. Cioè, tu entri dentro e questi ologrammi sono le tue memorie. All'inizio del film lo fanno fuori questo ingegnere, morto, e la figlia rimane sotto il dominio di questa mafia, di questo boss della camorra che l'ha fatto fuori. Bam, salto, 20 anni dopo questa nave è un relitto, perché nessuno l'ha mantenuta, è un relitto, ma la tecnologia continua a funzionare, per cui dentro si svolgerà tutta la storia di crimine e ci saranno continuamente questi ologrammi della memoria loro che interagiscono con loro, compaiono, scompaiono, non si sa perché, non si sa come, che è una cosa, una trovata bellissima. Uscirà tra poco, anzi forse questa settimana esce, e io ve lo consiglio veramente perché è una cosa che non capita di vedere tutti i giorni, perché addirittura è recitato in napoletano, che sembra una stupidaggine, invece funziona tantissimo. È recitato molto bene, doppiato bene. C'è a doppiare la matrigna, c'è Maria Pia Calzone, che era donna Imma Savastano della prima stagione di Gomorra. Addirittura. E c'è Alessandro Gassman che fa il protagonista, lo fa molto bene, devo dire. Doppia benissimo. Insomma, io vi devo dire, ve lo consiglio, è stata una grande, grande, grande sorpresa. Sei andato a vedere Live a Pompei di chi? No, perché era a Venezia. Ma ho visto, sempre a Venezia, Nico 1988, il film biografico su Nico and the Velvet Underground. Però, essendo 88, sugli ultimissimi anni, che sorpresa delle sorprese, anche questo è italiano, girato in inglese con attori stranieri, girato in Germania, ma italiani, produzione italiana, regista italiana, tutti italiani tranne gli attori. Anzi, ma la casa che italiani. Ha fatto il cartone animato chi è? Si chiama Madhouse, è una casa napoletana ovviamente, e prima ne aveva fatto un altro che si chiamava L'arte della felicità, ma io l'ho visto, non era bello come questo, non so, questo invece è veramente molto bello. Insomma, comunque Nico 1988 racconta appunto Nico, la cantante, negli ultimi anni, quello che gli è Dimmi, successo. Posso intervenire? Si è entrato con un sorriso straordinario. Il film è stato girato qua dentro. È vero, mi sono dimenticato di dirlo, è stato girato qua dentro. Ma dai. È vero, perché lei fa le interviste nella radio tedesca, ma in realtà è Radio Città Radio Stadt Aperten. Radien Cittadin Aperten. Infatti sul trailer, se vedete, parte la prima immagine, sì, è proprio questo studio qua. Io ho riconosciuto e ho detto wow! Io ci stavo lì prima che mi cacciassero, però io ci stavo. E, insomma, no, è un gran bel film in cui si vede anche l'Europa degli anni Ottanta. Allora, lei fa questa tournée oltre Cortina di Ferro, in cui ha bisogno della droga, ma lì non si trova perché chiaramente è complicatissima e quindi è isterica, sta con un uomo. Ed è molto bello perché racconta di questa donna che era bellissima, stupenda, che non gliene fregava niente di essere bella, tant'è che a quel punto si era molto lasciata andare e vuole distruggere la propria mitologia. Cioè gli fa schifo gli anni di New York, dice mi annoiavo da morire negli anni di New York di Velvet Underground, che preferisce molto di più questa sua età matura in cui è molto meno famosa, però insomma fa la sua musica. Devo dire, è un film che ti conquista. Bene, a novembre partirà anche la terza stagione di Gomorra. Esatto. Ah, ma io ho fatto un altro articolo. Ho fatto un articolo che avresti potuto fare tu. Cioè, te l'ho soffiato proprio. Me l'hai fregato. Te l'ho proprio fregato. Ho detto, se non mi sbrigo, questo lo fa Faster. Che è le 10 serie italiane di carattere internazionale che arriveranno nel futuro. E non hai idea quante sono. Che arriveranno nel futuro? Che iniziano le riprese nel 2018. Quindi proprio stiamo parlando del futuro dei futuri. Allora, ti faccio due o tre highlight. Quelle più note, che già lo sappiamo, sono The New Pope, che sarebbe The Young Pope 2, quindi Sorrentino. L'amica geniale, che è il bestseller di... che è incredibile che non mi viene il nome. Scusate, non mi viene... Elena Ferrante. Pensate, Elena Ferrante, che è famosissimo in America, la fa HBO. La fa. Di che parla? No, è una storia di donne a Napoli, però è un libro italiano, una serie di libri italiana che ha venduto ovunque, e quindi HBO, il canale americano, fa la produzione italiana. Poi, entriamo nel territorio che ci interessa di più, Colt, da un'idea di Sergio Leone, prodotto dai figli di Sergio Leone, con alla regia Stefano Sollima. Grande Stefano Sollima. Questo è il progettone vero, cioè la storia della pistola, la pistola è la protagonista, West, pistola. Ah, la famosa Colt. Esatto. 6 colpi, 6 puntate. Ogni puntata un colpo. Grande. 3 protagonisti. Ogni colpo serve a qualcosa. Ogni colpo cambia la loro vita. Già chiaramente l'idea di Sergio Leone. Cioè, quindi capite, già funziona. Strano. Chi l'avrebbe mai detto che era una buona idea? Tra l'altro, Sollima che fa il western, cioè si confronta con il padre. Cioè, proprio. Vabbè. Ha fatto i poliziotteschi come si è confrontato col padre. Adesso si... C'è proprio la storia del cinema italiano, bellissima. Cominciano a girare. Poi è bravo, tale padre, tale figlio. Sì, sì, se non più bravo, Per me di più. Poi, altro western italiano che arriverà, Django, serie di Django, ambientata ovviamente all'epoca, tutto giusto, forse, che io quando ci ho parlato stavano in trattativa, perché lui fa un po' di resistenza, con grande cameo di Franco Nero, però Franco Nero fa un po' di resistenza, ma veramente, perché non è rimasto contento del cameo in Django Unchained, sì, ha fatto proprio una sì, cosa... perché ha girato molto di più, gliel'hanno tagliato, vabbè, comunque lo stanno convincendo, storia... Hanno avuto una grande idea, Io non so proprio la trama bene, però... Ma chi lo fa? Lo fanno gli stessi di Gomorra, la produzione. Ho capito. Hanno avuto una grande idea. Cioè, hanno detto, quegli spaghetti western, tra le tante caratteristiche che avevano, ce n'era una, cioè che alla fine avevano sempre la politica dentro. Che era un po' la politica del 68, le rivoluzioni, no? Sì, c'era sempre stato. Sì. Allora, noi adesso lo rifacciamo e ci mettiamo anche noi un bel po' di politica, in quella maniera, però moderna. Infatti lo fanno Messico, confine tra gli Stati Uniti, immigrati che entrano e escono. Non dovrebbe essere male, perché loro sono svegli. Poi, altra cosa pazzesca, che io ho detto, wow, che idea, Suspiria De Profundis, serie horror, che non è ispirata al film di Argento, ma al libro a cui si ispira il film di Argento. Dario Argento fa da supervisore, non gira niente, grazie a Dio, perché gli si vuol bene, però non è il momento di Argento per girare cose, però supervisiona il progetto, e lo gira, io quando ho saputo chi lo gira sono impazzito, Flora Sigismondi, che è una videoartista italiana che ha fatto una marea di videoclip straordinari e gira anche spesso episodi di serie TV straniere, ha girato alcuni episodi di Daredevil, per dire. Lei è bravissima e mi hanno detto: noi vogliamo Flora Sigismondi perché nella musica, nel film, nella serie, che sarà ambientato a inizio Novecento, è importantissima la musica, sarà importantissima, quindi ci vuole una che si muova bene con queste cose. Secondo me viene benissimo. Poi Beati Paoli, che sembra una roba di chiesa, invece okay. No. È la serie di Tornatore. Tornatore sarà showrunner e farà gli episodi, ed è l'associazione che esisteva prima della mafia, che ha creato la mafia. Quindi è Sicilia fine 800, credo, una cosa del genere. Poi che altro? Ah, scusate, mi sono dimenticato questo piccolo dettaglio. Les Italiennes. È tutta italiana, non ci sono i francesi di mezzo. Però viene da romanzi italiani, tra l'altro, però ambientati in Francia, quindi si chiama Les Italiennes. Squadra di polizia mista italiana-francese che indaga su casi durissimi in Francia. Coprodotta Italia-Danimarca, e questo vi dà un indizio. Showrunner Nicolas Winding Refn, quello di Drive, quello di Bronson, cioè registone che farà da showrunner. E mi sa che le grosse, non sono arrivato a 10, ma insomma le grosse sono queste. Poi ce ne sarà una sul Vaticano, vabbè, sarà una meno interessante perché sarà molto scandalistica. Mi sembra che quelle pesanti sono queste. Beh, abbiamo detto quasi tutto, aspettiamo Gigrobo 2. Secondo me non lo fa. Lo fa? Io ci ho parlato tanto con lui, Gabriele Mainetti, e anche con lo sceneggiatore, che loro adesso stanno facendo un altro film insieme, che non è Gigrobo 2, che si vocifera sia un horror, ma non si è capito ancora se lo è, si vocifera. Lui all'inizio aveva detto sì, lo faccio, ma non adesso. Cioè, prima faccio altri film, poi lo faccio, dopo. Più ci parlo, più capisco che non lo vuole fare. Forse non ha l'idea buona, perché mi ha detto, adesso mi deve venire un'idea però, non è che lo facciamo per forza, cioè che ci venga un'idea seria, se no non lo faccio. Forse non sta trovando l'idea buona, non gli sta venendo, però non lo vuole fare, io ho capito. Perché secondo me... Poi si brucia il primo. Sì, oppure sa che tanto... Il primo ha preso un giro tale, anche perché non è il primo film italiano di un certo tipo, che dice, ma tanto io non lo batto, ma quando lo batto? Sì, non è possibile, ormai è diventata una cosa troppo grossa. È un cult. Vediamo come gli viene... Poi, sai, dipenderà anche come gli va il secondo e il terzo. Se cominciano per... Speriamo di no. Se cominciano ad andargli male, ci tornerà Gig, perché certo. Così va la vita, che devi fare. Però io confido molto, perché poi lui con la... Soprattutto quello che gli... Lui è molto bravo, Mainetti, ma... Quello che gli scrive Nicola Guaglianone, che ha cominciato a fare tante altre cose, io ho capito che è molto bravo, molto bravo. È quello che ha scritto Indivisibili, se l'avete visto, che c'ha un'idea... Cioè chi fa la sceneggiatura? Sì, lo scrittore proprio. Adesso sta scrivendo... Verdone se l'è preso subito. Ha detto, facciamo il film insieme, che ha capito che questo è forte. Verdone poi ha un'intelligenza... Cioè non si rimane sulla cresta dell'onda per 40 anni. Chi conoscete di regista italiano popolare, di successo, che ha successo da 40 anni? Veramente, nessuno. Solo Verdone. E non si rimane in testa se non sei capace di trovare i talenti, capito? Certo. Appoggiarti alla gente. Ma tra l'altro è quella anche una questione di di intelligenza, ma di capire che serve gente nuova. Esatto. Deve essere affiancato da gente nuova. Saperli trovare bene, insomma. E quella è una cosa importante per un regista, o comunque per un musicista, per chiunque. Se l'è preso subito. L'è preso nella sua orbita. Devo dire, si chiama Nicola Guaglianone, questo sceneggiatore, ed è veramente, veramente interessante. Stiamo ad una... Nuova primavera italiana. Beh, un po' sì. Un po'. Guarda, io sono restio a dire queste cose perché mi sembra sempre. Ma aspettiamo un po', aspettiamo a dirlo. Però devo dire ci che. Ci siamo. Sì, perché comunque tutto il via vero l'hanno dato le serie TV. Quello ha dato il via. Guarda il poliziottesco. Vabbè, i poliziotteschi, perché poi insomma. Sì, poi non 3-4. Come tutte le cose, non tutte vanno bene. No, non però non un che... paio. Però, insomma, sì, se ne quelle fanno. Quelle con di Alessandro più. Gassman, quella con. Che mi piace tanto, adesso non mi viene il nome. L'attore con Giallini. Giallini. Sì, no, perché stanno girando la seconda serie adesso. Sta succedendo quello che sta succedendo è che in contemporanea quello che facevamo sempre, cioè i drammetti e le commediole, stanno andando peggio. Quindi i produttori hanno detto: "Raga, buttiamoci tutti là". C'è chi li fa male, c'è chi li fa bene, però insomma, questo è quello che il produttore chiede al regista, allo sceneggiatore, tutti si stanno mettendo a scrivere queste cose. Quindi, insomma, sento buone vibrazioni. Io dovrei andare martedì, posso venire con te? Dovrei andare sul set di un progetto italiano incredibile. Io non so, veramente non so come viene, perché il progetto è folle. Allora, il regista di un altro bellissimo film, cioè Veloce come il vento. L'hai visto? No. No, questi film non si sparano cose. No, no, film di corse italiano con Accorsi che fa il pilota drogatissimo magro con i denti bucati. No, non l'ho visto. È un film molto bello, un film molto bello di... all'americana, guarda, i film di corse all'americana, lui, la seconda occasione, una volta ero grande, cosa... ritorno. Sì, sì, ma le corse fatte bene, non fatte a caso, riprese bene, per farle bene, le corse in pista, loro... Siccome a un certo punto gli ho chiesto, ma che avete fatto? Cioè, voi avete creato le altre macchine, il pubblico? Cioè, no, che mica c'avevamo sti soldi. Noi abbiamo iscritto una macchina al vero campionato Gran Turismo. E siccome la macchina è nostra, ci facevamo tutte le gare, ma ci montavamo dentro le videocamere. E anche sul paraurti, montavamo tutte le videocamere. Quindi tutte le immagini sono delle vere gare di Gran Turismo, che poi loro montano, assieme, scambiano, certo, come gli serve a loro. Però gli incidenti sono veri incidenti, le curve prese alta velocità sono vere curve, c'è un vero pilota dentro. Poi loro girano la parte dentro con l'attore, vabbè, no? Che finta. Certo. Tutti i piloti stunt erano piloti di Gran Turismo, veri. Io i nomi non li so, però mi sono informato all'epoca ed erano veri grandi piloti. Qui torniamo al discorso degli anni 70. Quando si facevano i poliziotteschi negli anni 70, le corse in macchina, gli inseguimenti, erano fatti dagli stuntman straordinari, perché c'erano delle corse, e le riprese erano fatte da registi straordinari, perché mettevano delle camere, poi con la tecnologia che c'era allora, insomma, dovevi essere veramente bravo. E questo Veloce come il vento ha anche un inseguimento dentro le strade di Modena, non è eccezionale, ma non è niente male. Considerate che sono 30 anni che non facciamo niente di tutto questo e arriva questo film. Comunque veramente non è niente male. Insomma, questo regista qua, questo film è andato molto bene. Ha cominciato a girare Il Primo Re, si chiama il film, ed è la storia di Romolo e Remo. Lo so, è incredibile. Lui, guarda, può succedere di tutto. Può essere una roba da mettersi le mani nei capelli, come può essere bellissimo. È un film di cappa e spada, no, però insomma. Sì, sì, però guarda, spadate, roba di una volta, cioè film d'azione, non è un film drammatico, è un film d'azione proprio. Mamma mia. Protagonista Alessandro Borghi, quello di Suburra, numero 8 di Suburra. Porco cane. Io non so che dire, perché davvero non so che dire. Andrò sul anche set. All'epoca facevamo i peplum. Esattamente. Con due soldi fatti bene. Quindi vedi, stiamo tornando all'antico, cioè quindi i poliziotteschi, i spaghetti western, addirittura i peplum, e quindi la nuova primavera. Vediamo come vengono. Io sono sempre coi piedi di piombo perché c'ho paura. È strana, Romolo e Remo è strana. Guarda, io non so che dire, veramente. Stavo dicendo Romolo e Remolo, come disse Silvio. Come disse il più grande. Il mio suocero. E il mio per ex suocero. Si è sposata? Ma chi? A via. Ah, Barbara? Non si chiama Barbara, quella più piccola. Forse sì, Barbara, quella del Milan, dici? Sì, forse sì. Barbara, non mi ricordo. Ah no, che era fidanzata con... Vero, è vero! Con uno dei giocatori, chi era? Sì, è vero. C'era Pato, ma ce n'era un altro ancora più. L'altro... Sì, esatto, ricordo pure io sta storia. Vabbè. sì, insomma... Sarà un bel vedere. Non abbiamo parlato dei film di questa settimana. Vai. Al volo. C'è Barry Seal, che è il nuovo film con Tom Cruise, che appartiene proprio ai film, una nuova tipologia di film che fanno molto ora gli americani. Dopo The Wolf of Wall Street, loro fanno molto questi film, che sono storie vere, ma assurde, come era The Wolf of Wall Street. Una storia che è vera, ma vi sembra, madonna, ma è davvero successa questa cosa? Che sono quasi sempre ambientate negli anni 80, e raccontano questi anni 80 in cui si poteva fare tutto, in cui c'è questo misto di tantissimo denaro, donne bellissime, tantissimo sesso, tantissima droga, tutto ai massimi livelli. Questa è la storia di questo vero pilota delle linee aeree, che a un certo punto viene contattato dalla CIA per diventare un loro agente nelle indagini su Pablo Escobar. Per cui lui deve infiltrarsi. Inizia che lui, siccome è molto bravo a pilotare aerei, può volare sopra le zone controllate dal cartello di Medellin e fare foto. Perché sa come nasconde, sa le tratte, sa tutto quanto. A un certo punto lui viene però contattato dal cartello di Medellin, che non è che lo minaccia, gli dice: apri la valigetta. Cioè, no, ma lavora per noi, tu continua a fare le foto, fai tutto. Sulla strada del ritorno, però, noi ti diamo queste cosettine. E lui, tornando, cose folli, lascia in questi aerei piccoli, aerei minuscoli, lasciava la cloche, apriva la botola e lasciava cadere queste cose in corrispondenza di certe zone. Volava radente, chiaramente. A un certo punto il governo americano lo sgama e comincia a fargli... Cioè, gli aerei lo affiancano, E siccome... Una cosa incredibile. Siccome questi aerei che lo affiancano sono militari, lui non è che scappa, Dice... io ho un aereo molto piccolo che porta un sacco di carburante, voi avete aerei molto grossi, molto potenti, con poco carburante. E si metteva in giro, girava, fino a che questi qui non dovevano andarsene a fare rifornimento e lui se ne andava. Così continuamente. Ma guardate, è un film incredibile. Tom Cruise, devo dire, è molto bravo in questo film. Fa una gran bella prestazione. È incredibile come tiene duro. Cioè, sembra, a tratti lo vedete che ormai è invecchiato, però lui tiene duro a sembrare un giovanotte, ma proprio veramente. Beh, anche nell'ultimo Jack Reacher 2. Ancora, beh, il film è bello quello lì. Sì, eh. Sì, il suo sforzo per sembrare ancora giovane è ammirabile, perché veramente ormai comincia a averci un'età. Però tiene duro e questo film non è niente male. Poi esce Gatta Cenerentola, l'ho detto, il cartone animato italiano stupendo, andatelo a vedere. Esce Cars 3, il cartone della Pixar. Cars è la serie che meno amata della Pixar in assoluto, ma questo Cars 3 un po' mi ha conquistato. Perché è un film di sport, sembra Rocky 3, sembra. Sto letto su Facebook. Esatto, sembra Rocky 3, che lui arriva questo nuovo sfidante, che è più giovane, più forte di lui, lo batte, e lui dovrà tornare a allenarsi nell'America profonda per riconquistare gli occhi della tigre. Però, insomma, ha un tono autunnale, un po' depresso, no? Che lui si guarda indietro, è un film di ricordi, pieno di ricordi, e a me mi ha conquistato un po' questa cosa, mi è piaciuto. Mentre ultimo di questa settimana che ho visto è Dunkirk. Abbiamo parlato prima Dunkirk, andatelo a vedere. Tra l'altro non abbiamo detto una cosa di Dunkirk, perché noi il gancio che abbiamo fatto è perché c'è Tom Hardy recita per tutto il film dentro la carlinga dell'aereo con la maschera, quella, il respiratore degli aerei, per cui per tutto il film lui recita con il contorno degli occhi, perché è l'unica parte che si vede, con cui può fare, che è immobile perché sta nella carlinga stretta, non si può muovere la bocca, non, cioè lui parla ma noi non lo vediamo muovere la bocca, solo gli occhi recita, una roba incredibile da alzare le mani. Barry Seal, abbiamo detto, no, la fratellanza ti volevo chiedere. No, la fratellanza non l'ho visto. Ah, sì, ho capito, non l'ho visto purtroppo. E Leatherface, che è il prequel di Non aprite quella porta. Con Non aprite per la, il personaggio principale di Non aprite per la porta si chiama, gli americani lo chiamano Leatherface, cioè faccia di cuoio, motosega, lo ricordate? Sì, sì, sì. È veramente un filmaccio brutto, mamma brutto, mia. Brutto, brutto, Sì, perché un po' non aggiunge niente alla mitologia di quella cosa. Un po'... Cioè, proprio non è quell'aria lì, non è quell'aria di quei film, è proprio diverso. C'ha un bel gusto per il massacro, cioè la parte sanguinolenta, devo dire, è fatta bene, è proprio, gli piace massacrare la gente, questa cosa va bene, però proprio non ho riconosciuto quel personaggio. Allora, stavo vedendo la prossima settimana se c'è qualcosa di interessante. Ah, io l'ho visto ieri, ma non posso dire niente perché c'è l'embargo fino al 19. Stiamo parlando di The Kingsman. The Kingsman 2, cioè il cerchio d'oro, quella serie. Io non vedevo l'ora. lo so. Sono sempre loro? Sì, più qualcun altro, però loro due ci sono. Colin Firth e il ragazzo, non mi ricordo il nome, comunque quello che era il protagonista del primo Kingsman. Taron Egerton. Sì, è lui, bravo. Egerton. Incredibile la tua memoria. Sì, sto leggendo. Memoria di cacca. Che memoria. Memoria l'ercia. L'equilibrio. Cos'è questo qua? Qui siamo alla settimana prossima. Siamo sì, no. Tu l'hai visto questo qui, però a me in privato lo puoi dire. Ovviamente. Non potrei neanche a te, perché mi stavo detto neanche a Faster, però farò un'eccezione. Come? Gli hai detto, guarda. Vorrei, se poi lo sa, cioè gli ho detto... Se me lo chiede io, cioè, non posso non dire niente. Finisco con due scarpe di cemento nel Tevere, cioè, lo dico. Va bene, altre cose? Altre cose questa settimana? No, questo è la programmazione di questa settimana. Ve l'ho detto, i film da vedere, ve lo ripeto un'ultima volta. Dunkirk, andateci, Gatta Cenerentola, se volete essere in anticipo sui vostri amici sul film italiano dell'anno. E Cars 3, visto che questa è la prima puntata, quindi rientriamo dopo tanti mesi di silenzio. Natale. Allora, Natale, non so niente, so solo due cose incredibili, guarda. Lillo e Greg, allora, sicuro. No. Ci sono due cose, questo Natale ci sarà veramente da divertirsi, perché veramente voglio sapere come vanno a finire. Allora, due storie si incrociano. La storia di Aurelio De Laurentiis e i film di Natale. Lui era quel produttore che ha fatto tutti i film di Natale, quelli della coppia, Boldi, quelli storici, Ivan Zina, tutti lui, sempre. Da Vacanze di Natale 1983, quello storico, sempre lui. e ha visto negli ultimi anni i suoi film andare sempre peggio. Prima la coppia si è separata, no? Era solo De Sica e non andavano bene. Poi solamente Lillo e Greg, perché lui faceva anche quelli, e non andavano bene come quelli. Ricordate, erano campioni di incasso quelli. Sì, facevano i milioni, esatto. Milioni. E questi non vanno a quelli, sempre meno, e voi se conoscete un minimo il personaggio sapete che non è che la prende bene. Quest'anno ha preso una scelta che io veramente non capisco, cioè, poi vediamo come vanno. Fa il best of, cioè non c'è scene nuove, sarà un misto di scene da tutti gli altri Vacanze di Natale. Cioè, un'idea che io non capisco. Sì, esatto, un'idea incomprensibile. Come si faceva negli anni 70. Sì, sì. Facevano tutti spezzoni di film. Non ci sarà nulla di inedito. Veramente, no. Forse ha detto, tanto ci vanno lo stesso, incasso poco, ma almeno non ho speso non niente. Non spendi una lira. Sarà quella l'idea, non lo so. Dall'altro lato, c'è un'altra storia che io trovo incredibile. Io butto là, Checco Zalone, ma ne parliamo tra un po'. Che è la storia di Massimo Boldi e i film di Natale. Cioè, a un certo punto la coppia si è separata. Boldi è andato, se avete magari non l'avete visto, io vi capisco. Quindi Christian De Sica quest'anno non fa film di Natale? No, zero. E no... Si spara. No, non fa film di Natale quest'anno. E voi probabilmente non l'avete seguiti gli altri film di Boldi, vi capisco, però io che per lavoro li ho seguiti, lui ha continuato a fare quei film lì, cioè quel format non li poteva chiamare Natale A, perché quello era un altro brand, si chiamavano Matrimonio a Parigi, Matrimonio alle Bahamas, perché era entrato in fissa col matrimonio a un certo punto. Io ho visto l'ultimo, lui è veramente... No, poi fermo, sì, no, poi è molto vecchio. Insomma, per 6 anni, 7 anni, una cosa del genere, forse anche di più, 8 anni, lui ha continuato a fare quel format, alle volte con Salemme, alle volte con Ercipolla, sì. Con quel tipo, Biagio Izzo, e non poteva andare a Natale, perché non poteva andare in contrasto, non aveva la forza per andare in contrasto con quelli di Natale, quindi lui anticipava a novembre, ma di anno in anno ha cominciato ad andare sempre meglio, devo dire, sempre in cassi piccoli, poi insomma, tanti film italiani bisognerebbero fare quell'incasso, 3-4 milioni, quando tanti film italiani fanno 1,5 milioni, però i film della volta facevano 20. I film di Natale di una volta facevano 20. 20, 25, 26, Lui 3-4... Quest'anno, quest'ultimo, e lui si è sempre un po' più avvicinato a Natale. Prima era inizio novembre, poi metà novembre, poi fine novembre, sempre un po' più vicino a Natale. Quest'anno, col fatto che quelli di De Laurentiis vanno sempre peggio, i suoi sempre meglio, è andato proprio vicino vicino a quelli di De Laurentiis. E io lo so, perché l'ho capito dalle interviste, che lui quello mira. Lui mira arrivare a fare lui il film di Natale, battere De Laurentiis, perché lui non litigò con De Sica, lui litigò con De Laurentiis. Ah. Era quello la cosa. Lui vuole battere De Laurentiis. E quest'anno... ce la fa. Esce a Natale col film che si chiama Natale con lo chef, perché vuole cavalcare la moda della cucina. Grande, che ideona. Guardate, allora, sono film di una bruttezza rara. Lui sì, non si muove più, fa schifo, poveretto. Ma io ve lo dico, io sono con lui. Cioè, ma questa pure, storia è io sì, pure. No? Vabbè, cioè, io vedevo, visto, non ricordo uno degli ultimi, l'ho visto sulle piattaforme, credo Infinity, non mi ricordo dove. E lui legge le battute, sì, se lo sì, vedi sì, che non qua, si muove più. La telecamera, cioè, fa così. No, ma non solo, se voi ci fate caso, fa lui fa tutto, le scene sono pensate perché lui non si muova. Alle volte sì, lui sì. Sta al balcone, sta fermo al balcone, sì, cioè, oppure capite, alle volte vi fa strano che ci sono troppi campi contro campo, cioè quando inquadro uno che parla, poi l'altro, perché le girano separatamente, cioè non c'è mai due persone in campo con lui, perché certo. Cioè, però va avanti, però tira come madre. In alcuni, è proprio se non stoico. Sbaglio, quest'ultimo proprio ci ha messo i soldi lui, di persona. Cioè, è una storia incredibile questa dei film di Boldi. Per quanto siano allucinanti... Cioè, Davide contro Golia. Sì, è una storia umana che io voglio vedere come Davide vecchissimo. Sì, capito? È proprio una storia di... insomma, sì, appunto, il grande vecchio che tira ancora contro De Laurentiis, che poi... non so, che magari siete tifosi del Napoli, non lo so, però insomma è una personalità che è facile avere in antipatia, diciamo, per cui è una storia incredibile. Senti, invece Zalone, Zalone pure... che poi veramente lui fa i film e scompare. Cioè, Zalone, una cosa incredibile. Zalone è una storia strana, perché allora anche qui, come cazzo, allora... anche qui si incrociano due cose particolari. Cioè, Zalone ha questo carattere qua, cioè lui, il suo carattere è: io faccio questi film che fanno così tanto, ma poi non mi rompete le scatole, io scompaio, non voglio più niente. Per... Che prima però lui stava sempre in televisione. Esatto, e poi zero. E ha detto, quando ha finito questo, mega campione, storia, incasso del cinema italiano, cioè proprio ha detto 4 anni di silenzio e poi torno. Proprio l'ha detto, cioè io non faccio più film per 4 anni. Medusa, che è il gruppo che lo distribuisce, che anche insomma un po' lo produce, le cose, invece sta in una fase, voi sapete, se lo sapete ve lo dico io, Mediaset è stata un po' smantellata perché Berlusconi sta dando via il suo impero, quindi sta finendo in mani francesi, insomma tutta una serie di cisure, per cui Medusa non produce quasi più niente, è scomparsa dal radar cinematografico, quando in realtà prima era un gigante, era gigantesca, faceva adesso, tutto, esatto, adesso non fa quasi più niente, fa pochissime cose. Zalone però chiaramente gli può bastare per un anno, cioè, ma Zalone ti basta. Giampaolo Letta, che è il boss di Medusa, ha detto no, 2 anni e torna Zalone, quando lui ha detto 4, ha detto adesso questo sarebbe il secondo, cioè sarebbe, dovrebbe tornare a Natale questo o gennaio, ma non sta girando, non sta girando, io già lo so, però loro continuano, quando presentano i listini dicono i film che faremo nel prossimo anno, continuano a mettercelo. Non lo so, è una storia strana, io non ho capito che sta succedendo, però secondo me Zalone cambia casa cinematografica. A meno che non abbia un contratto che lo non lega. Non so se ha un contratto. Lui ha fatto un patto col demonio. Cioè, la vera casa con cui lui lavora si chiama Tau 2, che è figlia di Medusa. Però è gestita da Valsecchi, che è un padre padrone, è un uomo con una personalità incredibile. Ha fatto per una vita fiction per Mediaset, esatto. Le ha fatte quelle serie. Ha fatto un sacco di social. È una persona di veramente. Si dice che la sua sia la casa più bella di tutta Roma. Si dice. È una casa che dà sul Colosseo, proprio dritta sul Colosseo. È bella dentro, è bella fuori. E questa è una. La seconda è dentro, non è vicino, è dentro il Teatro Marcello. Me l'hanno fatta vedere da fuori persone che ci sono state ospiti. Mi hanno detto, guarda, è quella finestra lì. È dentro il Teatro Marcello. Quindi, c'ha qualche soldo. Sì, vabbè. Poi ha fatto i film di Zalone, quindi... Ed è quello... Si è comprato il Colosseo. Che cinematograficamente l'ha scoperto. È quello che gli ha fatto fare i miliardi. È quello che ci ha creduto quando incassava relativamente. Insomma, no, gli deve parecchio. Ed è un... lo dico come un complimento. È un demonio. È un demonio. Quindi a me non mi stupisce se l'ha vincolato con un contratto di quelli allucinanti. Non mi stupisce se abbia un buon rapporto con lui, se gli conceda tutto. Insomma, è una situazione non facile. Io non so quando esce il prossimo film di Zalone. Sicuramente non a Natale, perché ho letto che non sta girando. E infatti non sta girando, però loro stanno insistendo perché... Vabbè, quanto ci vuole a fare un film? Oh? No, ci vuole. Quindi magari potrebbe uscire a Pasqua, potrebbe uscire... Non lo so, magari anche solo Natale prossimo, magari. Che comunque sarebbe prima di quello che ha detto lui. Cioè, fra 3 anni dopo. 3 anni dopo il precedente. Non lo so. Lui esce sempre dopo Natale, che esce il 1 gennaio. Lui ha creato un'altra data. Quella data non esisteva. Cioè, non esisteva, nel senso, non era una data su cui si puntava. Da quando lui ha cominciato a uscire il 1 gennaio, quella è diventata una data dove vogliono uscire tutti. Anche Siani, non nel periodo di... Cioè, negli anni in cui non c'è Zalone, certo. Alessandro Siani ha fatto dei grandissimi incassi uscendo il 1 gennaio sempre. E adesso tutti vogliono uscire il 1 gennaio, ma l'ha creata di fatto Zalone. Cioè, Medusa poi in realtà, però coi film di Zalone. Storie incredibili, ascoltatrici ed ascoltatori, solo qui a Celluliti e Celluloide, la trasmissione ovviamente più importante di cinema, più importante del mondo. Per questo motivo, anche per questo. Perché noi diamo le notizie, siamo sul pezzo, pazzo. Sì, grazie Vasquez, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Assolutamente. Ci sei venerdì prossimo? Oddio, sì. Aspetta, fermi tutti. Lo sapevo. No, venerdì prossimo sì. Ci sei. Poi, vi anticipo, a fine settembre no, perché vado alla Milano Games Week. Che bello. Videogiochi italiani indipendenti. Guarda, ce ne stanno 2-3 videogiochi italiani indipendenti che quelli con le mani quadrate, quelle dita quadrate. No, guarda che c'hanno le idee forti. Fan dai, videogiochi con le dita quadrate. Ma adesso, perché siccome tu hai detto questa cosa, mo ti voglio far vedere. Ecco. Mi ha detto devo andare via. Sì, lo so, però tu poi mi dici queste cose, no? Mi provochi. Ma provocato? Dove sta il video? No, qui mo c'è il video e ti faccio vedere. Fai. Vabbè, va dai, cammina da ma non po'. È vero! Ma non è così, quelli americani sono molto più fluidi. Vedi la telecamera che gira. No, dai. No, dai. Vabbè. Comunque, io andrò per farti ricredere. Sì, sì, vabbè. A parte che poi, vabbè, questo, come dire, è gusti, ma a me piacciono moltissimo anche i retro game, quelli fatti come i giochi di una volta, quindi chiaramente molto più piccoli. Ping però pong. Volte, giochi pure col ping pong. C'erano delle idee bellissime. Guarda questo, questo è uno dei più famosi. Io ho fatto anche la campagna Kickstarter, perché l'ho voluto finanziare. Si chiama Slaps and Beans, ed è un videogioco con tutte le cose dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Vedi, così, proprio come una volta. Ah, che si menano come sì, pazzi. Sì. Però l'ambientazione è geniale, cioè l'ambientazione è quella dei loro film, bellissimo. Che camminano dritti come cosa, come Mario Bros. Esatto, da sinistra a destra, no? Sì. Che si fa così. Bellissimo. Vabbè. Dammi un titolo di un videogioco di quelli belli, fighi, infiniti, quelli infiniti. Oh, guarda. Come quello, oddio, si svolge però in Russia. Su PC. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn è un gioco che mi ha fatto impazzire, bellissimo. Però è solo per PlayStation 4. E lo so che ti devo fare, però è un gioco bellissimo. Ma esce la PlayStation 5? Sono anni che c'è. No, esce la PS4 Pro, che è un aggiornamento della 4. La 5 non uscirà. Al momento ancora no. Va bene, grazie Vasquez. A venerdì prossimo. In bocca al lupo per le tue visioni da lunedì. Grazie.